sister got the news, and the sheik came sneaking back. But it was too late, there wasn't a thing that she could do. But kneel at her mama's grave and cry the whole day through. I could see the guilt in her eyes, I could tell she realized as she slowly dropped her head. And this is what she said: I brought shame, I brought shame on my family name, on my family name. I brought shame on my family name, on my family name. I brought shame, shame on my family name. Ce ne resti mai con un bigossino. Non faresti mai gli scontri a volto scoperto. Non ti confideresti mai con un prete. Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook. Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia. Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia. In una società dove tutto è merce, è logico che la natura venga devastata, il vivente saccheggiato. Sfruttamento della natura, schiavitù animale e addomesticamento umano sono la stessa faccia di una medaglia arrugginita. Ma se il nemico è uno, i modi di colpirlo sono tanti. Ogni lunedì dalle 21 alle 22, Radio Possum, la trasmissione che vive sezione allo sfruttamento. Radio Onda Rossa, vai vai vai vai vai. Radio Onda Rossa, Radio Onda Rossa. Io non cerco problemi, ma li trovo camminando per strada come gatti neri. Attraversano fieri gli incroci, questo gioco l'ho perso. Ho tentato ma non rido più, sono rimasto basito. Non hai vinto neanche tu. Ho deciso la cambio, la cambio subito questa città, dove la gente appesa a una continua teatralità. Muratini in cravatta, quella giacca la vuoi anche buttare. Alzo il dito medio, eccolo qui il mio pensiero. Correre sul vento, inossidabili. È già notte, le luci perdono il fascino dell'immortalità, dell'aria che brucia ancora. E giovedì mi alzo e vedo sempre un cartello blu. Un tortellino si accorge però, un elefante a testa in giù. Sto impazzendo di brutto, ma c'è qualcuno che sta peggio di me. Prima o poi te la brucio, quella sporca cravatta. Correre sul vento, inossidabili. È già notte, le luci perdono il fascino dell'immortalità, dell'aria che brucia ancora. No. Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Tu sai, io so. changing put around me, but I know I never will. You stay away and all I do is wonder why the hell I wait for you. But when did common sense prevail? For lovers when we knew you never will. Impossible to live with you, but I know I could never live without you. For whatever you do, I never, never, never want to be alive with anyone but you. You never treat me like you should, so what's the good of loving as I do? I thought you always laughed at life, nothingness would be good enough for you. But I know I could never live without you. Oh, oh, for whatever you do, ooh, I never, never, never want to be loved with anyone but you. Baby, baby, you make me laugh, you make me cry, you make me live. Make me glad, you make me mad for you. Oh, oh, darling, I love you, hate you, love you, hate you, but I want you till the world stop turning. Oh, oh, whatever you do, ooh, I never, never, never want to be loved with anyone but you. Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente. Quella che ascolti è Radio Onda Rossa, 87.9 FM. 06-491-7750 il telefono, 06-444-6316 il fax, ondarossa@ondarossa.it la posta elettronica, www.ondarossa.info il sito. that was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamenta femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. E ci scusiamo con tutte e tutti perché oggi abbiamo cominciato con uno stratosferico ritardo e avremo pochissimo tempo perché eravamo in piazza e siamo arrivati di corsa, anzi a dire la verità sono arrivata soltanto io e le altre compagne sono ancora per la strada perché Roma è un inferno. Diciamo che essere in piazza per noi era molto importante e vi volevamo salutare, volevamo aprire questo pezzo, questo spezzone di trasmissione con una frase scritta sui muri di Parigi nel maggio francese, proprio perché Hollande e Letta stanno facendo carne da macello delle nostre vite, e noi volevamo dire che il è interdit d'interdire, è vietato vietare. Allora, dato che abbiamo poco tempo, vi vogliamo parlare di una cosa per noi molto importante e in effetti dovrebbe essere importante per tutte e per tutti, ma soprattutto per tutte noi. Della nostra iniziativa, dell'iniziativa che faremo il 25 novembre, cioè lunedì prossimo, che è la giornata internazionale contro la violenza maschile sulle donne. Diciamo che è una giornata che noi abbiamo, prima di tutto vorremmo dirvi che non è che noi ci vogliamo far schiacciare sugli appuntamenti, soprattutto su questi su questa scansione che poi per noi donne finisce per essere il 25 novembre, l'8 marzo, no? Queste date, però allo stesso tempo riteniamo importante prendere parola per non lasciare che diventino giornate diciamo così oleografiche, ricorrenze vittimizzanti o cose di questo tipo. Abbiamo scelto per il 25 novembre un argomento che secondo noi è di grande attualità, sia per quanto riguarda la nostra oppressione, ma per quanto riguarda anche il tentativo di rompere con questo stato di cose che stanno provando in tanti e in tante. E cioè l'abbiamo impostata sul rifiuto della norma e sul rifiuto della legalità. Infatti le nostre parole che riguardano il nostro specifico femminista saranno il femminismo e rompere la legalità in cui ci vogliono imbrigliare. Vi leggiamo prima di tutto le parole che noi abbiamo messo sulla chiamata. Perché? Perché vogliamo partire da qui, perché questo è per noi un punto di arrivo ma è anche un punto di ripartenza. Rifiutare la norma e la legalità, rompere le regole del pensiero unico e dominante, nessuna legge sui nostri corpi, rifiutare il controllo, smascherare le strumentalizzazioni, non chiedere mai nulla, ma prendere quello che ci spetta. E l'attenzione che abbiamo dato al rifiuto della norma e della legalità non è una scelta a caso, ma è il punto di arrivo appunto del percorso che abbiamo fatto in questi anni. Abbiamo cominciato con parlare fra noi, sono già diversi anni come gruppo, della violenza maschile sulle donne. E proprio sul fatto che parliamo di violenza maschile, non so se forse a voi è indifferente, non so, sentendola così, uno dice violenza, giornata contro la violenza sulle donne, giornata contro la violenza degli uomini sulle donne, giornata contro la violenza maschile sulle donne. Invece non è così. Abbiamo voluto chiamarla giornata contro la violenza maschile sulle donne, come chiamiamo questa giornata da un po' di anni a questa parte. Perché? Perché la violenza che viene agita sulle donne è la violenza patriarcale. E questa violenza patriarcale viene agita sia direttamente dai maschi, ma viene agita dalle istituzioni in tutte le loro articolazioni, tant'è vero che nel nostro primo opuscolo che avevamo fatto già qualche anno fa, avevamo individuato nella scuola, nella sanità, nelle strutture detentive, per esempio, tre snodi dell'oppressione istituzionale sulle donne e anche la violenza maschile viene esercitata dalle donne sulle altre donne. In questo momento è molto importante analizzare un certo tipo di percorso emancipatorio. Lungi da noi rifiutare l'emancipazione, anzi l'emancipazione è uno strumento, però tale deve restare, mentre c'è un percorso emancipatorio che si è fatto assolutamente complice di questo sistema, che attua una collaborazione a tutto campo col sistema patriarcale e che agisce direttamente violenza contro le altre donne, attuando e mettendo in atto tutti i meccanismi di questo sistema e di questo e del patriarcato, tant'è vero che l'emancipazione riteniamo che sia stata uno strumento di pacificazione sociale, per cui ormai si dice tanto le donne hanno avuto, tanto le donne sono in posti di comando, tanto le donne, no? Dimenticando che l'oppressione delle donne sulle donne è strutturale, e infatti molte donne sono diventate attraverso l'emancipazione parte integrante attiva di questo sistema di potere e del relativo controllo sociale. No, e tant'è vero che mentre prima perpetuavano il dominio patriarcale con l'accettazione passiva o partecipe dei ruoli che erano assegnati, ora agiscono direttamente violenza contro le altre donne. Quindi è il 25 novembre, per noi sarà una giornata contro la violenza maschile sulle donne. E perché la legalità è la norma? Perché prima di tutto dobbiamo sempre tenere presente, anche per esempio ricordandoci che è stata fatta la famosa legge adesso sul femminicidio, che in effetti non è altro che un nuovo pacchetto sicurezza, no? E che è stata propagandata in tutte le salse come un'attenzione nei nostri confronti. Ma dobbiamo ricordarci sempre che le leggi non sono asettiche, non sono neutrali, sono la sanzione formale di un rapporto di forza. e quindi sono fatte dai più forti e destinata ai più deboli, alle più deboli. Dopodiché, allo stesso tempo, che cosa fanno? Ci parlano di una normalità, no? Ci parlano di una normalità che non è altro che una scala di valori che in questo momento è vincente. Quindi la normalità, essere, adeguarsi a una normalità non vuol dire nient'altro che adeguarsi alla scala di valori di questo sistema. Poi il neoliberismo, che cosa ha fatto in particolare? Il neoliberismo ha fatto tutto un proliferare di leggi, leggine, ordinanze comunali e non, no? Che hanno la pretesa di normare ogni aspetto della nostra vita, anche quelli che fino a poco tempo fa erano semplicemente comportamenti personali. E tutto è diventato penale amministrativamente, perseguibile amministrativamente, penalmente, no? E proprio questa società si arroga il diritto di decretare quello che è bene e quello che è male in tutti i momenti della nostra vita. Ed è uno spostamento dallo stato di diritto allo stato etico. E poi allo stesso tempo, se voi ci avete fatto caso, è tutto un inno alla legalità, cioè la repressione e il controllo sociale vanno di pari passo con la legalità. Tant'è vero che, per esempio, prendo qui, è stata pubblicata un'intervista al nuovo sindaco di Roma, Marino, che dice farò questo, farò quello, farò il parco archeologico, farò le adozioni gay per i gay, le nozze gay, farò la chiude, cioè non lo so, farò in modo che la città sia vivibile anche di notte, no? Ha fatto un'intervista in cui dice tutte queste cose e poi ribadisce: e poi voglio riportare la legalità nella capitale. E mi piacerebbe anche qui la parola solidarietà tornasse di moda. Allora, c'è tutto l'armamentario del politicamente corretto, vedonizzazioni, nozze gay, adozioni gay, moralizzazione e chiaramente legalità. Dopodiché una chicca, no? Questa proprio perché l'ho notata io leggendo l'intervista, parla dello scandalo dei falsi biglietti ATAC, no? Che girano, questi sono stati fatti questi stampati falsi biglietti proprio all'interno della struttura ATAC, e parla, dice, questa è una vergogna, dice, e dice una rete criminale interna. Allora, è chiaro che questi facevano i biglietti falsi, però da qua è l'impatto nei confronti delle cose, no? Cioè una rete criminale interna, per me, cioè un tipo di parola che dovrebbe essere usata in altri ambiti e per altre cose, perché fa tutto parte di questo discorso di criminalizzazione a tutto campo. È una modalità di affrontare le questioni, e soprattutto poi non parliamo di chi osa rifiutare, verso chi osa rifiutare questo stato di cose, chi si ribella, chi si organizza, no? Viene demonizzata, perseguitata, criminalizzata e criminalizzato, tacciato e tacciato di terrorismo. Vediamo quello che è successo con le lotte no TAV, no? E proprio terrorismo è una parola magica che etichetta qualsiasi dissenso sociale. Però noi donne sappiamo benissimo, abbiamo la memoria lunga e sappiamo benissimo che cosa ha portato il feticcio della legalità nella nostra vita. Non ce lo dobbiamo mai dimenticare, non ci dobbiamo mai dimenticare i tempi in cui l'aborto era perseguibile penalmente, e ricordiamoci, cioè si andava in galera, e ricordiamoci sempre che adesso siamo in libertà vigilata, cioè non si dice, sembra di no, però se la donna abortisce fuori dalle strutture legali per qualche motivo, nel senso fuori dalle strutture di Stato, è passibile di condanna penale. Il fatto che poi non venga fatta, non venga detta, c'è stato il caso di una migrante tempo fa che è stata condannata, mi pare, un mese di reclusione, poi chiaramente tramutato in multa perché tutte le considerazioni del caso. Però c'è la condanna penale, quindi noi siamo in libertà vigilata. Poi fino a non poco tempo fa, cioè il diritto di famiglia mi pare sia del 72, non vorrei sbagliarmi, una donna finiva in carcere, mi pare 3 anni, per adulterio, no? Poi il fatto che una donna finisca molto facilmente in casa di cura perché è pazza, se non si adatta alle regole di questa società, ci fa capire quanto nei nostri confronti sia forte il peso della norma, e ci sia sempre questa volontà e questo preciso intento di riportarci nella norma. Comunque non siamo le sole a pensare alla legalità. È uscito qualche giorno fa un comunicato sul blog, su Libere Tutte No Blogs, che è un comunicato di alcune compagne di Perugia che hanno fatto proprio una, che si chiamano Bella Queer, collettivo Bella Queer di Perugia, che hanno fatto proprio un chiamiamolo un'iniziativa sulla legalità, cioè contro la legalità, un'iniziativa contro la legalità, no? E sul blog ci dicono: ma quali basi naturali della legalità? Noi abbiamo solo geni ribelli. E che cosa è successo? Che il collettivo Bella Queer è intervenuto al primo incontro del corso di educazione alla legalità organizzato dalla provincia di Perugia, con l'intento chiaramente di contestarlo. E si è trovato di fronte oltretutto ben altro. Però così per inciso, vi rendete conto che fanno i corsi di educazione alla legalità? E vi rendete conto di che cosa significa questo? Ma i genitori che nelle scuole vedono proporre i corsi di educazione alla legalità non fanno un salto sulla sedia, non si rendono conto che questo non è altro che educazione alla sottomissione e alla praticamente deposizione di qualsiasi tipo di arma di critica, di presa di consapevolezza. È una cosa gravissima il corso di educazione alla legalità. E questo è rivolto a ragazze di 15-16 anni, in ambito istituzionale, che poi oltretutto appunto queste compagne, andando a contestare il corso sulla legalità, di educazione alla legalità, si sono trovati di fronte poi tutta una serie di affermazioni in questo ambito, in cui le donne venivano presentate addirittura come appunto, faccio un esempio, no? Si sono sentiti, no, questi ragazzi legittimare scientificamente, per esempio, le violenze nei confronti delle donne e delle ragazze, perché con i comportamenti seduttivi, con gli abbigliamenti succinti, con i corpi, provocherebbero l'attenzione degli uomini e le loro violenze, oppure che la donna ha un potere nei confronti del maschio, perché soprattutto in questi tristi casi, no, ci dicono in questo convegno, in questi tristi casi della cosiddetta prostituzione femminile, il maschio come fa a resistere? Ha difficoltà a resistere, quindi la colpa è sempre nostra. Quindi non solo educazione alla legalità, ma anche legittimazione della violenza di genere. Allora, grazie alle compagne di Perugia che si sono fatte carico di fare questa iniziativa. E noi vi ribadiamo quello che faremo allora il 25 novembre. Il 25 novembre alle ore 13 ci troveremo a Via Arenula, dove è il Ministero di Giustizia, per ribadire la nostra estraneità, la nostra distanza, la nostra contrapposizione netta, perché il femminismo è rompere la legalità in cui ci vogliono imbrigliare, è rifiutare la norma e la legalità, è rompere le regole del pensiero unico e dominante, nessuna legge sui nostri corpi, rifiutare il controllo, smascherare le strumentalizzazioni, non chiedere mai nulla ma prenderci quello che ci spetta. Lunedì 25 novembre ore 13 in Via Arenula al Ministero di Giustizia. E siccome questa trasmissione ormai è andata così, è scombinata, vi volevo leggere in chiusura la parentesi che di solito nell'impostazione della nostra trasmissione è a metà, cioè divide la prima parte, che è di attualità femminista, dalla seconda parte, che è quella di approfondimento. Perché vorrei leggervi